che restiamo insieme per i momenti in cui guardiamo al sole, per le giornate da dimenticare, per ogni attimo. Non c'è ragione nell'indifferenza, non c'è pudore nella vicinanza, e siamo uniti contro questo vento che soffoca. Camminare, non pensare, stare bene, stare male, attimi da ricordare, altri da dimenticare, giorni interi da passare, manca l'aria a respirare, questo senso di soffocamento che mi ferma il cuore. Mi resta appena il tempo per capire, avrò più tempo per pensare, in questo posto dove accadono le cose, dove crollano le case, il silenzio che diventa la normalità, e questo cielo che mi sembra una pubblicità, un grido fermo nella gola come il sogno, io resto qua.